giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È morto Bruno Pizzu, l'icona del giornalismo sportivo. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. È stato la voce delle notti magiche del Mondiale Italia 90, raccontando le partite dell'Italia per la Rai. Sentiremo la sua voce inconfondibile mentre commenta i gol di Schillaci e Baggio e poi una sua riflessione profonda sui valori dello sport per i giovani. A un pezzo intossicati da un principio di incendio, coinvolti un padre e due bambini, nessuno grave, l'origine da una canna fumaria. Doveva essere il giorno dei testimoni chiamati in tribunale dalla difesa del 35enne dominicano accusato di aver ucciso un connazionale a Capodanno dello scorso anno al laghetto Alcione di Udine. Invece più della metà di loro non si è presentata in aula. Nel quarto trimestre 2024 la produzione industriale in provincia di Udine è diminuita del 3,5% rispetto all'anno precedente. A contribuire al calo la decisa flessione delle vendite in Italia, mentre l'export ha tenuto. È partito il cantiere per i lavori di allungamento dell'asta di manovra dell'interporto di Pordenone, che ne consentirà l'adeguamento agli standard europei. Un'opera attesa che permetterà una maggiore attrattività del centro intermodale. In vista dell'8 marzo, festa della donna, sono state presentate questa mattina nuove iniziative della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. Le 12:31 minuti e 45 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 5 marzo, mercoledì delle ceneri, inizio del periodo di Quaresima. In apertura purtroppo dobbiamo dare la notizia della morte del giornalista sportivo della RAI e collega Bruno Pizzul, per anni commentatore delle partite della Nazionale Azzurra, e non solo, avvenuta questa notte all'ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da domenica scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni sabato prossimo. I funerali si terranno venerdì nel Duomo di Cormons alle 14:30. Con la scomparsa di Bruno Pizzul, la RAI, detto in una nota, perde un volto e una voce che sono rimasti nell'immaginario collettivo degli italiani anche dopo il suo ritiro dall'azienda, alla quale ha lasciato l'indimenticabile esempio di passione, competenza, eleganza, con le quali, non senza ironia e leggerezza, ha raccontato lo sport e il calcio in particolare. Bruno Pizzul ha dato voce alla nostra passione. Per 16 anni, telecronista delle partite della Nazionale Italiana di Calcio, indimenticabile narratore delle notti magiche del Mondiale di Italia 90 e della sfortunata finale di Pasadena di 4 anni dopo, persa ai rigori dagli azzurri contro il Brasile. Conduttore della Domenica Sportiva, di Sport Sera e di Domenica Sprint dal 1976 al 1990, ha sempre fatto della competenza e del garbo i tratti distintivi del suo stile di racconto, con i quali ha saputo entrare nelle case e nei cuori dei telespettatori. Un maestro al quale va il nostro ringraziamento per quanto ha dato alla RAI nella sua lunghissima carriera e per l'affetto sincero con il quale ha continuato a seguire la sua azienda. Nello stringerci affettuosamente ai suoi cari, ci impegniamo a mantenerne vivi il ricordo e l'esempio di uomo che ha incarnato profondamente i valori di una RAI al servizio di tutti. L'inconfondibile voce di Bruno Pizzul si è spenta 3 giorni prima di compiere 87 anni all'ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da qualche giorno. La sua ultima telecronaca l'aveva condivisa con gli abitanti della sua Cormons l'11 luglio 2021, raccontando in piazza la finale dei campionati europei tra Italia e Inghilterra, e commentando così in diretta un trionfo degli azzurri, come mai gli era riuscito, ed era un suo rimpianto, nei quasi 20 anni in cui dalle frequenze della RAI era stato la voce della nazionale. Una voce calda e garbata, entrata nelle case di tutti gli italiani con espressioni memorabili come l'indimenticabile «tutto molto bello». Cresciuto a Cormons, una carriera da calciatore interrotta molto presto per un infortunio al ginocchio, Pizzul era entrato alla RAI per concorso nel 1969. Già l'anno dopo aveva commentato la sua prima partita, dal 1986 l'incarico di raccontare le partite dell'Italia, che mantenne fino al pensionamento. L'ultima cronaca diretta, Italia-Slovenia allo Stadio Rocco di Trieste, il 9 ottobre 2004. E poi i trionfi delle squadre italiane nelle coppe, gli altri sport, la tragedia dell'Aisel, dove prima della finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool, sugli spalti morirono schiacciate 39 persone. Dopo un lungo trapianto a Milano, negli ultimi anni Pizzul e la moglie erano tornati a vivere a Cormons, da dove lui aveva continuato a collaborare con programmi televisivi e i quotidiani locali, non negandosi mai per un commento o un'intervista. Moltissimi i messaggi di cordoglio, non solo dal mondo del calcio, dall'affettuoso abbraccio alla famiglia dell'Associazione Nazionale Alpini, corpo in cui Pizzul prestò il servizio militare, al ricordo del patron dell'Udinese Pozzo, che lo ha definito un'icona del Friuli che ha portato in alto il nome della nostra terra, davvero gigante del giornalismo. I funerali venerdì alle 14.30 nel Duomo di Cormons. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sulla scomparsa di Bruno Pizzul sono arrivati commenti dal mondo politico e sportivo. Per Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, Bruno Pizzul, con la sua voce inconfondibile, le sue parole appassionate, le sue telecronache incalzanti, ha accompagnato la vita di tutti noi, icona del giornalismo sportivo, friulano doc, profondamente legato al Friuli e ai suoi valori, esempio di dedizione per la sua professione, di amore per lo sport e per il calcio. Oggi, ha concluso Ciriani, abbiamo perso un uomo per bene, ci mancherà. Bruno Pizzul è stata la voce che ci ha accompagnato in momenti incredibili della nostra storia sportiva, una voce inconfondibile, ci lascia un grande giornalista, un cittadino illustre del Friuli Venezia Giulia. Ciao Bruno, un abbraccio forte a Fabio e la famiglia tutta, lo scrive sui suoi social la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha espresso a nome dell'intero Consiglio un sentito messaggio di cordoglio ai familiari del grande giornalista Bruno Pizzul. La nostra regione perde oggi una delle sue voci più autorevoli e rappresentative, ha detto Bordin, un uomo che ha saputo incarnare i valori e la passione del nostro territorio. Ci lascia un uomo profondamente legato al suo territorio, amato e stimato dalle nostre comunità, una voce inconfondibile, brillante e sempre elegante, un uomo di cultura e sport che ha sempre portato il Friuli nel cuore. Queste le parole del vice governatore con delega allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil. Sia nella professione sia nelle sue passioni di vita, Bruno Pizzul è stato un uomo che ha colto sempre l'occasione di raccontare la sua terra d'origine, il Friuli Venezia Giulia, regione che ha amato profondamente, diventandone di fatto uno degli ambasciatori più illustri e benvoluti, così l'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. Per Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Bruno Pizzul è stato un testimonial eccezionale della nostra regione in tutto il mondo, un vanto per intero Friuli Venezia Giulia, un innovatore nel mondo del giornalismo, mestiere che ha sempre svolto con passione, impegno e dedizione tipicamente friulane, oltre che con capacità fuori dal comune, dettate dalle sue grandi qualità umane. Il 29 maggio 1985 Bruno Pizzul era il commentatore TV della finale della Coppa dei Campioni quando ci fu la strage dell'Eisel. È stata la telecronaca che non avrei mai voluto fare, disse Pizzul all'epoca. Ecco il ricordo del collega di Rai Sport, Francesco Repice. E ora una notizia che devo dare. Quella tragica notte dell'Eisel è stato il suo capolavoro giornalistico non solo per le tante ore di diretta al microfono con le notizie frammentarie e terribili che arrivavano in postazione cronaca, ma soprattutto perché quella telecronaca, quel drammatico resoconto fecero capire agli italiani quale irreale disastro si stesse consumando al limitare di un campo di pallone e come quell'assurdità fu perfettamente percepita da un tono di voce che improvvisamente si fece grave e solenne, friulano, arguto, elegante, ex calciatore, diceva di se stesso bel jugador ma lento, erede di Nando Martellini alla guida delle telecronache della nazionale, finali raccontate e perse senza mai andare oltre. A Maria, la sua inseparabile compagna di vita con la patente, come amava dire Bruno che di guidare non ha mai voluto saperne, ai figli Fabio, Silvia e Anna, l'abbraccio di noi tutti, anche se questa è una notizia che non avremmo voluto mai dare. Bruno Pizzul è stato la voce delle notti magiche del Mondiale d'Italia 90. Per 16 anni in 5 campionati del mondo ha raccontato le partite dell'Italia per la Rai. Sentiamo allora la sua voce inconfondibile mentre commenta i gol di Schillaci e Baggio nei mondiali e poi una sua riflessione profonda sui valori dello sport per i giovani. E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol, gol di Schillaci ancora. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio sembrava tutto finito. Lo spirito vero dello sport è uno spirito che invoca la compartecipazione, il piacere di stare assieme, il piacere di inseguire il risultato e la capacità di accettare anche il risultato negativo, ma sempre sul piano del reciproco rispetto e del piacere, della soddisfazione di fare qualcosa che ti piace, che risponde alla tua passione. Si riapre il caso Resinovic. La nostra collega Alessandra Zigaina ha appena incontrato il fratello Sergio Resinovic e ci aggiorna in diretta. Te la linea, Alessandra. Sì, buongiorno. Asfissia meccanica causata da terzi. Dunque, il nuovo esame medico-legale commissionato dal GIP conferma quanto proprio il fratello di Liliana andava dicendo da anni. Una lunga battaglia legale è la sua che comincia a vedere i primi risultati. Nella perizia firmata tra gli altri dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si dice che le lesioni trovate sul corpo trovano una concreta e plausibile spiegazione tecnica soltanto con l'avvenuto intervento di una terza persona. Quando Sergio Resinovic continuava a dire che la sorella non si era suicidata, non si basava solo sulle impressioni relative all'umore di Liliana, ma su alcune evidenze: la mancanza di impronte sui sacchi neri dentro i quali è stata trovata la donna, tali da giustificare che sia stata lei stessa a infilarsi all'interno, e un segno sul volto di Liliana visto in una foto che gli era stata mostrata in questura, un segno che faceva pensare a una lesione inferta da terzi. Non sono contento, ci ha detto questa mattina Sterpin, ma sono sollevato, finalmente si può iniziare una nuova indagine. Sterpin in parte punta, per così dire, il dito contro la procura per aver archiviato il caso a suo tempo come un suicidio, ma nello stesso tempo giustifica in parte quanto accaduto con il periodo in cui si sono verificati i fatti, il Covid, le restrizioni, il periodo natalizio, la mancanza di personale. Intanto l'avvocato Bevilacqua, che assiste il marito di Liliana, in un'intervista al Corriere della Sera dice di non condividere le conclusioni dell'ultima perizia medico-legale, affermando che i sacchetti che aveva in testa Liliana erano più che sufficienti a provocarne l'asfissia. Quanto alle lesioni, dice l'avvocato Bevilacqua, non c'è nulla che faccia pensare ad una aggressione, si profilano già gli elementi di una nuova battaglia legale. Ringraziamo Alessandra Zigaina per averci aggiornato in diretta e proseguiamo con la cronaca. Tre persone sono rimaste leggermente intossicate questa mattina, poco dopo le 8 ad Ampezzo, per un principio di incendio a una canna fumaria avvenuto in un'abitazione in via Nazionale all'incrocio della strada Persauris. Le fiamme hanno attaccato uno stipite e la porta vicina, hanno coinvolto gli abitanti dell'edificio, in particolare un uomo di 33 anni e i figli di 11 e 16 anni, che non hanno riportato gravi conseguenze grazie all'iniziativa dell'adulto che con prontezza ha arieggiato gli ambienti in cui si era sviluppato del fumo. Sul posto, in aggiunta ai vigili del fuoco, anche il personale medico di ambulanza ed elisoccorso. I tre sono stati trasportati in via precauzionale in ospedale per accertamenti. Nuova udienza in corte d'assise a Udine nel processo per il cosiddetto omicidio di Capodanno avvenuto lo scorso anno al laghetto Alcione. Più di metà dei testimoni chiamati a deporre della difesa doveva essere del 35enne dominicano accusato di aver ucciso. Non si è però presentata in aula, ha sentito invece il consulente. Avrebbe dovuto essere il giorno dei testimoni chiamati dalla difesa di Anderson Vasquez di Pres, il 35enne dominicano accusato di aver ucciso a Capodanno dello scorso anno al laghetto Alcione di Udine il connazionale 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez. Invece molti di loro non si sono presentati nell'aula a Falcone Borsellino del Tribunale di Udine, dove si celebra il processo dinanzi alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Paolo Milocco. Le parti si sono dunque accordate per il deposito delle SIT, le sommarie informazioni testimoniali raccolte nell'immediatezza del fatto e nei giorni successivi. La parola è passata dunque al consulente della difesa, Alfonso De Maglio. Questi ha concordato con gli altri consulenti sulla causa della morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, uno shock emorragico massivo. Ha però contestato innanzitutto la definizione di arma bianca per il bicchiere con il quale l'uomo è stato colpito, che deporrebbe a favore di una intenzionalità del gesto, parlando piuttosto di arma impropria. De Maglio ha poi ricostruito la dinamica dell'omicidio descrivendolo come un atto frontale, immediato, concentrato nel tempo e non dunque una sciabolata come sostenuto dall'accusa del pubblico ministero Elisa Calligaris. Una dinamica che, secondo lo stesso De Maglio, che ha risposto alle domande della difesa, dell'accusa e dell'avvocato di parte civile, confermerebbe le dichiarazioni dello stesso imputato, ipotizzando una reazione istintiva provocata forse da una spinta alle spalle. La tesi della difesa, affidata a Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, è insomma quella di un omicidio non volontario ma preterintenzionale. La prossima udienza è stata fissata per il 10 aprile per la discussione. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.45, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11.5 gradi, Gorizia 17.5, Udine e Pordenone 15.5 gradi. In area montana Forni di Sopra 13.5 gradi, Tolmezzo 13, Tarvisio e Piancavallo 10 gradi in quota, sul Monte Zoncolan 7.5 gradi, sul Monte Lussari 5.5 gradi, sulla costa Lignano 12.5 gradi, a Grado 10.5 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio cielo prevalentemente sereno su tutta la regione con zero termico intorno ai 2.500 metri. L'Università degli Studi di Udine ha espresso in una nota profonda preoccupazione per le crisi aziendali attraversate da Flex, oggi Adriatronics, e U-Blocks, che prospettano la perdita di centinaia di posti di lavoro e minacciano di compromettere il tessuto produttivo locale. La nostra sentita solidarietà va ai lavoratori e alle loro famiglie che rischiano di essere colpiti dai licenziamenti paventati, si legge nella nota. Diversi dipendenti di queste aziende sono eccellenze formate nel nostro Ateneo e la presenza di attività industriali nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni consente lo sviluppo di collaborazione negli ambiti delle attività di ricerca e di formazione a beneficio degli studenti e delle aziende. Pertanto, conclude la nota, ci auguriamo che vengano intraprese azioni concrete per preservare questo prezioso capitale intellettuale e garantire l'occupazione dei nostri laureati. Al via i lavori di allungamento dell'asta di manovra dell'Interporto di Pordenone, con un indotto di 1.000 persone, movimenta 7 treni alla settimana, ma soffre della frenata della Germania, della crisi di Suez e del conflitto russo-ucraino. È partito il cantiere per i lavori di allungamento dell'asta di manovra dell'Interporto di Pordenone, che ne consentirà l'adeguamento agli standard europei, un'opera attesa che permetterà una maggiore attrattività del centro intermodale. Cristina Mirante, assessora regionale alle infrastrutture. Di fatto è un binario ferroviario di servizio che collega la stazione di Pordenone con l'Interporto stesso. Questo consente ovviamente di poter fare entrare un treno senza doverlo dividere in pezzi di fatto, e quindi con un risparmio di tempi, ma anche proprio di costi. Il primo lotto interessa il sottopasso ferroviario su Via Nuova di Corva per un importo di 2 milioni di euro e una durata lavori di 180 giorni, di cui un mese di attività notturna. Con il secondo stralcio dell'intervento per l'ampliamento della sede ferroviaria si arriva a un quadro economico di 6 milioni di euro. Carlo Bolzonello, amministratore delegato Interporto. Quest'opera per Interporto Pordenone, ma per il sistema complessivo della logistica del Friuli Venezia Giulia, è fondamentale. Passeremmo da un'asta di manovra di 350 metri a un'asta di manovra di 750, quindi soddisferemo tutti gli standard europei e quindi potremmo avere veramente una intermodalità all'avanguardia. L'Interporto, che ha un indotto di 1.000 persone, oggi movimenta circa 6-7 treni alla settimana e soffre della frenata della Germania, della crisi di Suez e del conflitto russo-ucraino. Siamo passati da 28.000 TEU, cioè container praticamente movimentati, prima del conflitto, agli 11.000 di oggi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dall'ultima indagine dell'ufficio studi di Confindustria Udine tra le aziende associate emerge che nel quarto trimestre 2024 la produzione industriale in provincia è diminuita del 3,5% rispetto all'anno precedente. A contribuire al calo la decisa flessione delle vendite in Italia, mentre l'export ha tenuto. L'industria manifatturiera continua a mostrare segni di debolezza. Nel quarto trimestre 2024 la produzione industriale in provincia di Udine è diminuita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 23, in calo di quasi il 2% anche nell'intero 2024, il terzo arretramento annuo consecutivo, dati dall'ultima indagine dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine tra le aziende associate. Per quanto riguarda le attese, si registra cautela. La maggioranza degli imprenditori intervistati ritiene che la produzione nei prossimi mesi resterà stabile, soltanto il 9% prevede una crescita, un sentiment che trova conferma nel calo degli ordini, in diminuzione del 5,2% rispetto allo scorso anno. Al calo tendenziale ha contribuito la decisa flessione delle vendite in Italia, giù di oltre il 7%, mentre l'export ha tenuto. L'impatto della crisi del manifatturiero sui livelli occupazionali sembra essere meno marcato rispetto agli altri indicatori, segnando comunque una flessione congiunturale dello 0,6%. Divergente l'andamento dei singoli comparti. Guardando l'intero 2024, solo alimentare alimentare, chimica e gomma plastica evidenziano un percorso di crescita. Tutti gli altri settori, dalla meccanica alla siderurgia, legno arredo, cartari e materiali da costruzione, pelle, cuoio e tessile, mostrano variazioni annue negative. Il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, spiega che sul calo pesano una domanda interna e gli investimenti molto deboli, una situazione internazionale geopolitica e tecnologica incerta, i costi più alti dell'elettricità, la recessione della Germania e i dazi dell'America, rispettivamente primo e secondo partner commerciale del Friuli Venezia Giulia. Per Pozzo le imprese nel complesso restano solide, non si tratta a suo avviso di una crisi di sistema ed è possibile uscirne a breve investendo in innovazione e formazione di risorse umane qualificate, puntando su prodotti tecnologici ad alto valore aggiunto, con sempre al fianco però l'Europa. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. In vista dell'8 marzo, Festa della Donna, sono state presentate questa mattina nuove iniziative della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. Prosegue l'impegno nelle pari opportunità del Comune di Trieste. A illustrare le iniziative è la presidente della relativa commissione, Margherita Paglino, che ha tracciato un bilancio di quanto fatto finora e ha delineato le attività in programma nel biennio 2025-26, in particolare la realizzazione di un convegno sulla situazione delle donne che vivono in zone di conflitto. Quindi analizzeremo soprattutto lo stupro come arma di guerra, che va a segnare veramente anche per sempre la vita di queste donne. L'altro convegno, invece molto importante, sarà sulla medicina di genere, con un focus particolare invece su quelle malattie che colpiscono prevalentemente le donne, ad esempio nella neurologia, la cefalea, la sclerosi multipla, la depressione, sono malattie che maggiormente colpiscono la donna e andremo a capire quindi a che punto siamo, perché, quanto c'entra la genetica o quanto c'entra il carico di lavoro di una donna. Tra le attività previste anche un contest dedicato ai ragazzi delle scuole contro la violenza, un convegno su donne e lavoro, il premio La Rosa nei Venti aperto agli sport in cui il genere femminile è sottorappresentato nei ruoli apicali. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si avviano alla conclusione i lavori per la costruzione della rotatoria R1 in prossimità del punto più a nord del Mediterraneo, che ha consentito l'eliminazione dell'impianto semaforico sull'intersezione tra i viali Verdi, Cosulic, San Marco e via Boido, snellendo notevolmente il traffico in entrata e in uscita da Monfalcone. Condizioni meteo permettendo saranno effettuati dalla prossima settimana in orario notturno, proprio per limitare i disagi e la circolazione. Gli interventi per la realizzazione del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dell'intera intersezione e dei rami stradali afferenti alla stessa, che comporteranno la chiusura al transito veicolare. La rassegna anteprima dedica si conclude domani, giovedì 6 marzo, a Pordenone alle 20.45 con una serata che celebra anche la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, organizzata con la collaborazione di Cinema Zero nell'ambito di Aspettando Pordenone Docs Fest. Sarà proiettato il film documentario My Stolen Planet di Farhanaz Sharafi, seguito dall'intervento di Mercedes Gaedi, attivista iraniana rifugiata in Europa. Sentiamola in questa intervista. Parshon Azizi. Cita i nomi delle attiviste iraniane attualmente incarcerate e condannate all'impiccagione. Voglio essere la loro voce, dice, quella di tutte le altre donne perseguitate dal regime iraniano. Una situazione che conosce bene Mercedes Ghaidi. Dai suoi 23 anni fino ai 30 li ha trascorsi in un carcere in Iran. Condannata a morte, torturata assieme ai fratelli e alla cognata con l'accusa di essere antirivoluzionaria, si è salvata solo lei grazie a un permesso per cure mediche che è diventato la sua via di fuga dal paese. Tramite Amnesty International è riuscita a rifugiarsi in Europa, dove vive da oltre 30 anni. Da allora continua la sua lotta per la libertà e i diritti delle donne. È a Pordenone per anteprima dedica, accompagnata dal presidente dell'associazione Neda Dei Taher Dejafarizat, in occasione della proiezione del documentario My Stolen Planet di Farhanaz Sharafi, organizzata con Cinema Zero nell'ambito di Aspettando Pordenone Docs Fest. Le chiediamo come prosegue il movimento di protesta seguito all'uccisione di Mahsa Jina Amini nel settembre 2022. Mahsa Amini, vakti che koshte shod, è stato un movimento senza precedenti, ma oggi le manifestazioni si stanno indebolendo a causa della repressione ed è invece urgente più che mai continuare con la lotta. Solamente a febbraio sono state impiccate 87 persone, di cui il 37% donne. Mercedes interviene anche sull'obbligo del velo. Amini era stata incarcerata dalla polizia morale iraniana perché non indossava correttamente l'hijab. Penso che l'imposizione del velo sia un modo per tenere sotto il dominio maschile le donne. Ritengo che l'hijab debba essere vietato alle bambine e alle ragazze sotto i 16 anni, se non i 18. E cita come esempio positivo la legge francese che vieta il velo islamico nelle scuole pubbliche. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di calcio: l'Udinese ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore francese Axel Gosson al Kristiansund in Norvegia. Intanto domani alle 15 si riapriranno le porte dell'allenamento al centro sportivo per tutti i tifosi bianconeri che potranno assistere da vicino al lavoro dei ragazzi di Mister Uniaici che torneranno in campo nel posticipo di Serie A di lunedì 10 marzo in trasferta contro la Lazio con inizio alle 20.45. Un appuntamento culturale, il volume Ricordi in Fausti 1928 di Emilio Stanta, che racconta la storia di un soldato partito da Trieste per combattere sul fronte galiziano, sarà presentato questa sera a Trieste alla libreria Ubik alle 18 dallo storico Todero e dal giornalista Koslovic, nipote dell'autore. E prima di chiudere la notizia di servizio, per agevolare i cittadini nella fruizione dei servizi e per semplificare le operazioni amministrative, l'ufficio tributi del comune di Monfalcone si trasferisce al primo piano della sede di via Duca d'Aosta 34 nella sede dei servizi demografici. Per consentire le operazioni di trasloco, l'ufficio tributi da questo pomeriggio fino a sabato 8 sarà chiuso al pubblico e sarà di nuovo operativo da lunedì 10 marzo con apertura al pubblico che riprenderà da mercoledì 12 marzo e venerdì 14 marzo dalle 9 alle 12 con accesso previo appuntamento. E alle 12.56 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezza e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Marco Ferritto e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.